giorno e notte attaccati ad uno schermo, ci nutriamo di sogni e di takeaway raffermo. Viviamo di menzogne, negli occhi un salvaschermo, seduti da così gran tempo che il tempo sembra fermo. In eterno proiettiamo i nostri corpi in un buio cyberspazio, dove siamo chi ci pare, sfuggiamo a questo strazio. Perché dovremmo vivere, pagare un certo dazio, quando armassi di circuiti ci possono far vivere nello spazio. Ci sentiamo immortali sprecando la vita, temiamo la luce che ci fa vedere che siamo. Ci sentiamo potenti non facendo niente, temiamo la gente che ci fa affrontare i limiti, la pigrizia ci ammorsi, maestra della notte. Temiamo la vita perché non è infinita, temiamo la vita perché non è infinita, e ci sentiamo sapienti perché sappiamo tutto di serie, cinegiochi, noi siamo un tritatutto. Passiamo ore ed anni senza nessun costrutto a vivere altre vite d'ogni specie in ogni tempo e dappertutto. Manca solo la nostra, sempre ferma al suo debutto. La paura di far scelte ci culla nel suo flutto, ci rende onnipotenti, fa di noi un eterno tutto. Morsi dall'indolenza abbiamo ceduto di noi stessi l'usufrutto. Ci sentiamo immortali sprecando la vita, temiamo la luce che ci fa vedere che siamo. Ci sentiamo potenti non facendo niente, temiamo la gente che ci fa affrontare i limiti, la pigrizia ci ammorsi, maestra della notte. Temiamo la vita perché non è infinita, ogni tanto ci verrebbe da tirarci su d'un tratto, da svegliarci e riattivarci, da scattare come un gatto. Ma ci guardiamo intorno a quel che abbiamo ormai già fatto, ci sconsola, ci dispera, ci respinge nell'anfratto a fare il ratto. Ci sentiamo immortali sprecando la vita, temiamo la luce che ci fa vedere che siamo. Ci sentiamo potenti non facendo niente, temiamo la gente che ci fa affrontare i limiti, la pigrizia ci ammorsi, maestra della